di tutti, riconosciuto dal coach. Spero, se con lo so, sto arrivando. Ciao raga. E invece non è entrato nessuno. Gianni. E io. Tanto scusa, ma troppo in giro, grazie, allucinante. Questa roba in chite mi sta ammazzando, grazie. E invece da Loretti si è vero tutto girare. Ma non è una cosa normale quella. La pressione tra le misurate. Sono a posto, è la labirintite, lo so già che cos'è, mi hanno già portato via l'ambulato una volta, perché mi ero spaventato, mi ho chiamato il 118 perché non riuscivo più a camminare, ho vedo tutta la stanza a girare, ho fatto in tempo a prendere il telefono, quello cordless, e ho chiamato il 118, sono venuti, quando Liliana è tornata col bambino da scuola si è trovato caricato. Praticamente si trova un liquido, un gel dietro l'orecchio che regola il nostro equilibrio. Se tu usi una postura sbagliata dormendo, ti viene questa labirintite e ti dura giorni e giorni. Oh yeah, oh yeah. Faccio di altro, dopo il pino sempre. E quindi cosa fai? Non ti fai alzare? Oh, ci ho messo un ombre a venire a risponderti perché ero dall'altra parte. Immagina, tiro la rete matrimoniale dall'altra parte, alla parte destra, mi devo spostare sulla sinistra per risponderti. Come sono andato a spostarmi, ho visto tutto girare, non capo più manco che cazzo stavo facendo. Devo la stanza a girare. Boh, non mi è mai capitato. Qualche volta già mi sono alzato un po' a capogiro, ma non so perché, ma era molto, molto raramente. Molto raramente. Va bene, non c'è altro nessuno? No, non c'è nessuno, cara. Hai visto il Doug de Bordeaux che ti ha mandato? Doug de Bordeaux che non mi ha mandato? È di un'amica mia. Ragazzi, sono andato a trovarla in campagna, ragazzi, c'è questo cane che è bellissimo, qua. Non ne sono innamorato. Doug de Bordeaux piace anche a... l'aria, però per i cani adesso un attimo di pausa perché già ce n'è uno e va bene così, poi si vedrà più avanti quando sarà tutto finito, se no non riesco a concludere niente, non riesco a muovere, non riesco a fare niente. Filippo è molto impegnativo, molto molto molto, non solo il tuo ma il mio, è molto impegnativo e quindi per il momento va bene così, poi quando c'è il giardino sarà tutto finito e allora sarà più indipendente, può darsi che un altro arrivi, ma per il momento va bene così. Beh, è impegnativo, Dio, quello che mi richiede è portarlo giù, fargli fare una passeggiata, quello che mi richiede è quello, non è che sia impegnativo più di tanto, perché poi a casa sta buonissimo, sta interrato guardando gli altri cani, oppure sta coricato, è tranquillo. Poi quando ha voglia di giocare mi porta la pallina, magari sono sdraiato nel divano e porta la pallina, me la tira per farlo giocare, allora la tiro dritta e lui la prende al volo, poi me la riporta e via dicendo, giochiamo così, ma più, non è sempre, ogni tanto lo fa questo che mi viene voglia di giocare. Non so, Filippo è un po' più stravagante, capito? Non sta nel poggiolo, sta da una stanza all'altra, devi stare attento a non salga sui letti, quando beve devi pulire il muso perché sennò bruciava tutta la casa, è un vicinetto. Un po' impegnativo, per mia moglie è impegnativo, se sono a casa io no, però per mia moglie non le fa combinare niente, capito? Quando passa l'aspirapolvere la mette appresso, la morsica, rompe palle, capito? Quindi un po' più impegnativo. Perciò non vedo l'ora, guardi, finire tutto, così c'è il suo habitat, non se ne va a vedere più. Ora ti trasferisci da Aussi, è deciso. Già, devo prima vendere questa, perché sto affrontando spese allucinanti tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, quindi devo vendere questa, capito, per poter finire delle cose importanti, se no alla fine esce di sotto, capito? Vabbè, comunque l'idea c'è, dai. Beh, quella è già fatta, è già di diciamo al 90% è già abitabile, però ci sono tante cose da finire che sto sempre togliendo, alla fine non va più nulla, capito? No. E quindi è vendita questa, agganci ne ho tanti, però agganci se non la do, capito? E quindi stiamo aspettando, no? Ma io sai cosa stavo facendo qua, se tu dici che sono scemo adesso, ero su subito, stavo andando a controllare sciarpe cinesi femmina, o in vendita oppure da far saltare. Stavo guardando adesso, poi tu mi hai chiamato e ho aspetto tutto, ma ciao becco, sì. Ho a cagare la Sassari lo becco, Sassari lo giuro, che sappia io non c'è. Cagliari già ci sono perché c'è l'allevamento, ma chi dell'allevamento mica te lo fa saltare, usa i suoi. No, anch'io, se vuoi, è molto amico di Mario, quello di Cagliari e quello di Oristano, capito? C'erano due uguali a Filippo femmina, della stessa taglia, taglia grande, quelli che sono a Sassa e le femmine sono tutte taglia piccola, e non fa, per Filippo non fa, infatti io... ci ho rinunciato perché questo di Cagliari, amico di Mario, voleva Filippo una settimana, me lo lasci qui una settimana, di auguro Gani, ma non te nato. Cosa mangia? Come chi lo segue, chi lo fa? No, no. E quindi niente, continua a farsi le pippe Filippo, però non salta, non ce n'è che va a Sassari della sua taglia, capito? Sono tutte femmine nane, lui ha bisogno di una femmina della sua taglia. Quindi praticamente è un bulldog inglese femmina di taglia alta che ci sono e che molti preferiscono comprare quelli di taglia piccola perché sono meno ingombranti e meno tutto, capito? No, io se tu venivi a Porto Torre, se da poco c'era la gara e ho conosciuto questa ragazza, ne aveva due di quelli come il tuo, proprio taglia grossa, un maschio e una femmina. Ci ho pensato, io non volevo, stavo per dire, poi gli ho detto sì, ho un amico che ce l'ha così, taglia grossa, ah davvero, dice lui, quindi c'era mio marito praticamente che faceva la notte, poi di giorno proprio non sapeva cosa fare, quando si svegliava era annoiato, sempre figli non ne abbiamo, e allora ci abbiamo comprato un bulldog di questi inglesi, di quelli taglia grossa, e poi io ho voluto comprare la femmina, tanto così almeno c'abbiamo il maschio e la femmina. Non abbiamo un figlio, ha detto, di anghero solo. Vedi, non so perlo. Perché a Sassari non ce n'è, ripeto, di questi così giganti, dai. Un luogo inglese così, taglia alta. Sono tutti taglia piccola. Se lo troviamo, va bene, se no pazienza. Aspetta un minuto già che mi vuole mia moglie, un secondo solo. Io sono andato lì per trovare la femmina, invece non ne ho trovato, c'erano solo i sciampi, quelli americani. E vabbè, comunque, cancio, adesso mi tengo qui e basta già, per il momento, poi si vedrà. Roberto, quel mio amico che praticamente c'è il figlio di Hannibal, vai e cercalo Hannibal, è campione nazionale, eccetera, l'ha pagato 2.200 euro dal continente, se l'ha fatta arrivare, avete entrato primo col cane suo, il pastore tedesco. Detto, porta a Tyson, un cazzo che il giudice come lo vede ti fa subito il pedigree, guarda che te lo fa già, vai, portalo cazzo, e invece non l'ho voluto portare perché tu magari sa fare quella figata, casino. E sono andato per fare le fotografie a lui perché doveva gareggiare, capito? E questo qui è il figlio di Hannibal, cazzo, è uno dei campioni italiani. Se vai su Google lo cerchi, lo vedi, è bello, cazzo, sai che c'è l'assetto abbassato dietro, cazzo, proprio la roba abbassata, cioè. Sì, vabbè, tutti i pastori tedeschi tendono a essere più bassi dietro, è la performance del cane, capito, è così. No, con Sassari non ce n'è uguale a Filippo, se no l'avrei già fatto accoppiare, capito. Però Oristano a Cagliari sì, Oristano a Cagliari sì, è anche conosciuto. A volte va con Mario, capito, non sono gare regionali, queste cose qui se lo porta a Filippo. Sì, dice vabbè. Comunque, vedremo, più avanti già. Adesso ho altre cose a cui pensare, abbastanza importanti, quindi devo chiudermi tutte le cose di lavoro, eccetera, poi a Lugano che mi serve. No, c'ho cose più importanti, senza parlare di dubbio. Ora mi serve nello scrivito di cercare su internet a ver se trovavo qualche femmina da fare accoppiare con Thais. Perché questo che sa cosa ha combinato l'altro giorno, siamo andati in farmacia, è entrato lì su Tussico, che si vede a 30 km lontano, che si vede in quei Tussici. Ci stava sempre grattando la testa, cazzo, voleva passare a tutti i costi, mamma mia. E Thais, come l'ha visto, subito argomentando, la prima ha ringhiato, perché si è accorto che non era normale, dai, che non era tranquillo. E poi gli si è attaccato alla gamba e se lo stava montando. E questo qui che cazzo, dove sei bello, detto, dai, mettila. Cazzo, non si voleva attaccare, proprio lì si è attaccato. Vabbè, lo fanno. No, Filippo no, lo fa, mi gioca con Mario quando mi porta la bombola. Io vicino a Pascoli, perché di rubare di trampa, perché lo tenta l'ascensore, come esce, si attacca la gamba, mollami, mi fai gagifili, mollami, sempre così sta. Adesso un po' ce l'ha mollato il vizio, e poi quando viene Massimiliano, ma Massimiliano sente l'odore come sta salendo le scale, le va incontro e basta. Però fuori non, a Natalino, il primo giorno che l'ha visto, gli si è attaccato la gamba. A Natalino è, capite, così, è cuoco, ma e quindi gli si attacca. E a me la volta, anche a me. Ah, anche a te, e io. Però non l'ha più fatto. Adesso vediamo, ti ripeto già. Oh, cose molto, molto importanti, urgenti da chiudere, mentre quest'anno, e poi si vedrà. Poi si vedrà l'anno nuovo, cosa decidiamo, perché anche Mario sta pensando di prendere un altro, eccetera. No, ma per Tyson già la trovi la femmina, perché Tyson è già taglia alta, quella taglia lì, quella razza lì, sono tutti, sia la femmina che il maschio, sono insomma abbastanza grandi. Mentre invece il bulldog inglese c'è la taglia come Filippo, la taglia quella piccola nana. E i femmini di Sassa sono tutti così, capito? L'unica era quella di Ossi, un'amica lo stesso di Mario, che porta la macchina a rubare, però ha già saltato due volte, già due tagli cesari, quindi basta, non ne fa fare altri. Sì, ho dato lavoro a Serena ancora, lo sai, l'ho dato all'amica che cerca in campagna e lo stavo mirando da lì. Sì, no, quello che sta portando adesso è la farma, e sono roba farmaceutica, le mangia molto bene, sta andando benissimo il cane, porta controllo al veterinario, mi ha detto, ah, finalmente Filippo in ordine, bello tosto, bello, però non grasso, bello, ha tenuto bene la forma, dai, con le altre crocchette mi stava calando di peso, capito, quindi non ci voglia dubbio. Questa della farmania, non lo so, comunque, sono buone, queste mi ha portato adesso, avevo portato prima, mi ha portato un sacco da 5 kg per provare, ho visto che le mangiava bene, con gusto, il cane non ha perso peso, capito? E allora ne ho preso un sacco da 25, che è 30, quant'è? 30 euro, 27 mi sembra, me lo fa, ma è 30 euro comunque. Va bene, Marco, non si è sentito? No, non è stato nessuno. Vabbè, Natalino mi ha mandato alcune foto, sta costruendo l'antenna nuova. Marco, non so, se va a sedere un mito. Aspetta che cambio radio già, dai, che uso un po' la mia, se no, un po' la mia, c'è sotto due mie, ma uso il 440, questo lo spengo, che ho usato anche ieri, e il 440 è da un po' di giorni che non lo uso. Spengo il 30 e accendo il 40, aspetta, stacco l'antenna. Ecco qua, facciamo andare un po' questo, se no guai. Vabbè, doppio root. Aspetta che sono suonato una collega che mi ha chiesto come stavo, Claudio, se conosco. E io. Palla, Claudio. capita di interessarsi di te, poi vanno a riferire, capito? Ma cos'è questo? Non tuo collega? Ma responsabile. No. Sì, infine ancora non te l'hai sistemato col microfono già. Cacchiami, un bel. Beh, differenza c'è da questa all'altra radio, non sono uguali, questo è il 60. Sì, questa è la parte più forte, ma guarda che si assomiglia molto, eh. Non crederti che te l'hanno detto anche a Massimiliano, si assomiglia. Sì, sì, vabbè. Qua è il 30, questo è il 40, adesso facciamo andare un po' questo. No, vabbè, vabbè, con quel microfono, sì. Iniziamo stasera con 60, si leva il microfono. Meglio usarli. Non è un canale davanti, facciamo la lavoro secca. Sono belle giornate che stanno facendo, ma dimmi due. Cos'è, Puisato? Mi sta ascoltando la radio Massimiliano, mi ha mandato un messaggio. Che bella, eh? Che bella. Superstar Massimiliano, via, che bella, portata qua la provata, bellissima quella radio, molto buona. Ma io anche io ho delle spese qua, devo comprare una scarpa ortopedica che costa 380 euro, più di 4, più 70 euro, che devo fare questa visita al piede, ti mettono il piede su una piastra e lo studiano col computer per farti la sola ortopedica. Addirittura? Sì. Non vedi su di queste cose, da voi lo devo fare. Oh. Va bene. Prima la salute e poi. Ma se stai lavorando c'è ancora malattia? Non sono le malattie, sono le ferie. Sono le ferie, non ne ho io malattia da fare. Sono già tutta fatta la malattia. Queste sono ferie che ci avevo da prima. Avevo 15 giorni e me le sono prese perché non stavo bene. E così mi piace sta a riposo, eccetera, eccetera. Ah, è vero, ma avevi detto già, perdonami, ma anche io sto iniziando a perdere i colpi. E io dovrei andare a riferire lo stesso, adesso vediamo. Sto mese le faccio fare il mio collega, è stressato, ho avuto anche un incidente con la macchina, scendo a Caglia, c'è la macchina in officina. Ho trovato di riferire, già mi arrangio io, perché poi il prossimo mese... Non mi dica, anche mille volte 20 di ma io quindi adesso che sono in figlie, il buco si è dimezzato, capito? Il dottore mi ha detto, hai visto? Non abbiamo messo né medicina né nulla, stiamo mettendo solo la benda, ma lo sta chiudendo, me lo pulisce e poi me lo chiude. Senza mettere né medicina né nulla, mi si è chiuso già per metà. La metà, cioè la metà del taglio, si è formata già la carne dentro. Tu devi stare adesso, si vede che si sta a riposo perché la gamba è pulita, non c'ha nemmeno secrezioni né niente. Devi stare a letto, tu adesso mi dirai in grasso, quello che vuoi, però fregatene di quello, devi cercare di stare a letto a riposo. E come fai, Claudio, come fai? Quello che posso già ci sto a letto, però non è che puoi stare sempre cucato. E come fai a stare sempre cucato? Se no, io ci uscirei. In quel caso ci sono le cose da fare, devi cucinare, devi pulire, devi fare, vedi che devi lasciare la casa trasandata. Ma infatti, non funziona l'uscino. Loro fanno fretta, mi ha detto di prenderti questa scarpa ortopedica, costa 380 euro più 70 euro di l'esame che ti devono fare. Ho detto, ma questa cosa è un po' dispendiosa, non è che si può prendere, visto che ho l'esenzione, no, non le devo spiegare una cosa, questo qui è fatto privatamente, non accetta l'esame, queste cose qui non le dà, è stato fatto privatamente e il privato si fa pagare questo tanto qui, me lo dica se lo vuole che io devo prendere l'appuntamento, perché che cosa le dicevi, grandi, no? Sì, ho il video, ho visto, vai. Ehi, Massimiliano, lo stavo guardando, mi lo stavo dicendo a Claudio, bello, è bello, esce anche bene. Come te lo stai prendendo, Massimiliano? Forse poi te ne pinto. No, tanto sono da tutti, no. No, lasci troppi. Sto vedendo quello, c'è anche il tornado, quindi c'è anche le serombe, venne. C'hai anche le cobra. Ah, c'è anche le cobra, è vero. Oh, yeah. Te l'ho preso la malattia? malattia. E vabbè, no, no, questo è bello, poi è nuovo, è nuovo. Tu sapevi per caso che il 2009 c'aveva anche due ingressi tipo il Magna Serone, uno da una parte e uno dall'altra? No, non lo sapevo. E infatti le cover sono così, però non c'è lo spinotto dall'altro. Ci avevo fatto caso, dunque lui. Comunque esce bene, perché l'ho sentito in prova e va benissimo. Esce bene, sì, da. È una buona radio. Già tutto al massimo, mi pare va a 10 watt, esce con una trentina di watt. Per questo fino alla mossa, era una bella radio. Era una fatta quella, Massimiliano. Questa l'ho presa esattamente, forse un paio di mesi fa, Ciccio Cobra a Milano. Questa non ha fatto manco un giro di propagazione, ha proprio 000. Dietro infatti c'è il potenziometro per l'ascolta, che è troppo irregolare, capito? Ah, tu l'hai presa già fatta, non l'hai mandata tu a fare? No, questa l'ho comprata nuova e l'ho mandata a fare. Ah, capito. Avessi avuto i soldi mi piace anche, dico la verità. Ma c'ho questo problema adesso, devo comprare questa scarpa ortopedica, che costa 380 euro, più 70 euro per fare questo esame al piede, immaginati che cosa mi piace. Siamo fuori di tavola, quattro mascelli, la volta è fatta, avanti di qua. Allora, burro antitardo, antitarlo e antigiolo. Non farò il te. Io c'ho un collega già che c'ha, poverino, la protesi, non c'ha mezza gamba di legno, immagino che un po' di legno, capito? Tutta la protesi, quella che si chiama prima di legno. Una volta, quest'estate mi ricordo, e lui però cammina normalmente, fa servizio normalmente, è assunto come invalido, però sta negli impianti, poverino, aveva quello che si è sempre dato a fare. Un anno, anzi da un luogo, a 30 d'agosto, stava entrando dentro l'impianto, ed era mettendo la griglia, allora, si è messo a ridere lui, figura, mamma mia, decido, uscì, ma c'è gli altri, poi l'ho chiesto scusa, ha detto, ma no, molla tutto, esci, te ne do la griglia, gatto, ci passi un fuoco, ti si incendia l'anca. È venuto ridendo, dice, claro, quando ci si incendia l'anca, quante volte ha camminato, gritto in varia, ho fatto in varia, ha fatto incendio, ha detto, scusa, Giovanni, mi è uscito così, quanto non ti preoccupare, prendiamola a ridere, e sono 30 anni così, c'è un incidente, non c'è da trovare, mi hanno dovuto tagliare per forza, perché sennò era un casino, capito? Cazzo, non mi feci dove siamo, ma mi sta duranca, ma sembra Gianni. Allora, come ti dicevo, avevo visto, questo tipo stava caricando la spesa, no? Questo signore, diciamo, già di una certa età. E gli ho detto, la vuole una mano, ma non mi era avvisato che gli mancava il braccio. Cazzo, ma mi ha mai dato, no, ti dico, ma non usi il biglietto. Sì, sì, ragazzi, dai, io ho acceso, ascolto un pochino che vado a farmi la doccia, mi faccio la doccia e poi rientro volentieri, no? Adesso vi lascio, a dopo. E io lascio in media, dai. E io lascio in media, dai, già siamo qua, non ti preoccupare, dai. Ho detto, questo è 60, molta differenza c'è dall'altra, Massimi. Oh. Ho detto, questo è 40 con 60, molta differenza c'è dall'altra. E diciamo che il microfono la fa la differenza, però già si assomiglia, là, si assomiglia, però 60 è 60. Già ti ho capito, va bene, va bene. Va bene, dai, buona doccia, ci sentiamo dopo, avanti già. E comunque, come te l'abbiamo regolato, la voce è assomigliante, si assomiglia a otto. Da come sei entrato, a quando l'abbiamo regolato, che è passato proprio un medievo a dottare i morti. Perché io pensavo che potesse andare il 5 senza toni, invece ci vuole il tono a 2, 1 e mezzo a 2, in modo che smorfi e dia i medio bassi, capito? Se no c'hai troppi acuti, mentre 60 è già così, le capsule sono completamente diverse, una dinamica, altra ceramica, quindi è chiaro che ti dà la tonalità medio bassa, la tonalità medio alta già tutta compresa. Ma bene, importante se posso usare quel microfono, perché è un nuovo, è un peccato, mangio aggiungerei di lì, capito? C'è anche più 4. Poi vabbè, lo inserisco 60 anche lì quando lo uso, ma era giusto un esperimento che però sembra che sia andato a buon fine. Andavè. Vediamo un po' se c'è qualcuno ad Alghero. Alghero, c'è qualcuno in ascolto? Cambio? Non sento niente. Sempre gli stessi dove compravo il mangime io prima, la Serena. Gli stessi proprietari sono. Cazzo, perché l'altro giorno c'avevo l'appuntamento con questa amica. Dato l'appuntamento, questa doveva andare a lavorare, ha detto di andare 10 minuti prima, così poi lo portavo, perché in campagna dove lavora lì, capito? È la principale che c'è il cane. E praticamente non arrivava più, alla fine gli ha telefonato e gli ha detto che c'era il furgone che aveva avuto un guasto e che non sapeva se ce la faceva in giornata. Allora avvisa Barocca, qui se si intende, se stavo aspettando non arrivava più. Radio, Fabio. No, mi stava dicendo una cosa mia moglie, invece, sempre, eh? No, ma la padrona Serena, già. Ah, non è la proprietaria lì? No, la proprietaria è un'altra persona, mica di Milari. Vabbè, comunque, non so con chi ha parlato. Mi si è guastato il furgone e questa amica mi ha aspettato, perché lei lo caricava in macchina e poi se lo portava in campagna, perché loro non lo sanno dove andare, che la campagna è chilometri, arriva quasi vicino a San Camillo, all'interno però. E fatta sta che stavo aspettando per andare a lavorare, e non era un appuntamento per dire alle 10, non si vedeva, 10.05, 10.10, e alla fine mi ha telefonato, e te c'è il furgone che si è rotto, e non sappiamo manco se ce la facciamo, che per dire, te, ma potevo avvisarmi almeno, io aspettando che mi vada in chi. No, io telefono, mi dico, te lo portiamo domani alle 6, ok, perché sanno che io ci sono di sera, e vengono e me lo porto. L'altro giorno ha tardato una mezz'oretta perché dovevo fare un'altra consegna urgente, però me lo portano subito. Capito? Questo che sto prendendo adesso l'ho trovato favoloso. Non è quello, come si chiama la titolare, no, no. Come si chiama? Non è Serena, come si chiama la titolare? Vabbè, comunque anche non arriva. Chi è che voleva entrare su canale 10? C'è qualcuno? Che? Franco, tu sei sbagliato canale, vai. Va bene, va bene. Comunque già c'è la possibilità di prenderlo qui superstar da Massimiliano, è bellissimo, è favoloso. Scusa Claudio, ho sbagliato il microfono. Hai sbagliato il microfono o canali? No, il microfono. Scusa. Non me ne ero accorto, ho detto ho sbagliato canale o ho sbagliato microfono. Va bene, fra, non ti preoccupare, non c'è so niente. Capito già, c'è la possibilità di prenderlo con la radio. Favolosa, molto bella, l'ho provata. Mi piace perché è cromata, eccetera, eccetera. Poi su questa mi è sempre piaciuto. Non so che microfono abbia messo, però esce bene. Il microfono suo, c'era il microfono veramente. Anche qui sono microfoni suoi modificati, capito? Quindi c'è la possibilità, prenditelo. Quindi poi te ne fai fuori qualcuno che non ti serve. E te la abbigliisci. Molto bella. Bella è. È la grande, duro. Tu che c'hai il coso, lo sfortellino, pulisce in macchina, anche quel 48 ore. Il 48 fa bene quello che c'ho io, cazzo, era di Gigino, ma non è cazzo che è un 48 così. No, vabbè, anch'io ho avuto quello di Gigino, però quella è un'altra macchina, un'altra guba, non ha niente a che fare con il 48 già. Sono radio superiori, poi molto bella che rispetto a quella. MD1B8 non sto usando, mi cade un coso se ci vende, e PTT. Oh yeah. E quando c'è il microfono, intanto il radio, le usi, questa quella Iaeso microfono, sono bacio ai quattrini anche quello, non lo gratti. Esce molto bene anche quella di Padilla, va. Quale? 48? Sì. A Valghero non si poteva... Oh, era fondo scala, Davido, fondo scala, arrivava una bomba. Se tu consideri che... vedi io qua quando è agganciato arriva a 9.15, la radio è molto molto bella. Ed è un 48, anche questo va bene, dai, dai, 48 quando ci adeguano, dai, sono stati i primi a essere adeguati a modifiche e cose. Beh, ne ho avuto due io, tutti due di Gigera. Quello che ho io, quello che avevo io di Gigi ce l'ha già nel dischetto. Gianni Tricudi, amico di povero Giampaolo, che l'ha lavorato a Giampaolo, poi Giampaolo ha lavorato a Gianni Rischetto, lo sta usando, esce benissimo, alla grande, capito? E uno l'ha venuto a me, se te ne ricordi. Quello è il primo, io l'avevo preso l'altro e poi l'altro l'ho lavorato a Giampaolo, due solo ne ho avuto di 48 modificati, poi quello ce l'ho, il 48 però è originale, capito? Quello lo tengo per coso, dai. Io ho due 48 modificati e quello che arrivava già modificato dalla fabbrica, c'aveva tutto, c'aveva doppio modulatore, camera eco, se te lo ricordi, poi mi era partito subito con l'apparecchio lì, e non si poteva contare. Lo so, non avevo detto la collezione di Cheghemo, come siamo d'ora ai pari, a farli correre, sennò diventa di nuovo un casino, magia truppi, peccato comunque quello di Massimiliano, e trovare uno a Baglio, no. Tu saresti stato quello più, perché ti piacciono quei tipi di radio, capito? Nuovo, bellissimo. Ma ti ripeto, metterlo a casa, quindi Massimiliano in campagna, quindi non lo prepara nessuno. Ma se io li metto in casa, anche se metti con lui, li prendo qua, non fare le scatole, no, non fa, dai. In macchina uso l'altro, uso il canale 48, qua a casa c'è tutta la stazione completa. A piacere mi piace, perché mi piace, ma se mai tu mi dici che mi piace, lo compare giù. Non sono io. Vendo e compro. Ma io proprio se non vendendo un peso mi sempre comparetti. Adesso basta, finito. Sennò è un casino. Ho detto, da poco faccio altre cose molto più importanti la radio, anche perché tanto non le sto usando. Poi quanto ne ho abbandonato. HF l'accendo una volta ogni tanto. Questo così. Oggi mi sono spente, c'è voluto fare il 30 attaccato, adesso ho sganciato il 30, attaccato il 40, qui c'è anche l'altro, sempre che il sacco non sto usando in questi giorni, domani cambio di antenna e usiamo il sacco, che è già troppi giorni spento. Io questo qua è quello che uso di più, Claudio, quello che uso di più, è stato un ecco. È quello che va meglio. E questo microfono qui di stare fermo rasca, capito? Perché se è stato fermo ci deve essere un po' di polvere, adesso bisogna pulirla e poi mettergli un po' di cerino. Lo so già, io avrei modulato solo con quello se non avessi avuto il capo. Ma questi vanno accesi e usati, non solo accesi. Vanno fatti scaldare, trasmissione soprattutto. Fare funzionare bene la ventola, capito? Farlo girare. Non si possono ottenere solo accesi o spenti, capito? Se non avessi avuto questi, avrei usato sempre il Galaxy, perché anche a me piace solo qua davanti, capito? Però io purtroppo far girare anche questi e se no non mi posso permettere di rischiare che vada nuovamente a casino. Non sai se riesci a speso queste radio, che le ho fatte tutte e due visionare, capito? Una quest'anno, il 30 e il 40 l'anno scorso, quindi basta, devo usarli e buco. Ehi, vabbè, quelli si sa che devono andare, a parte vabbè, tutto qua. sono troppo ricche, sono andato a schiacciare il pipistino e non faceva di quello che uso in macchina. Poi ho passato CRC, ne ho fatto un paio di primuti a vuoto e adesso va bene. Non saliva manco la portante. Sì, ma è così già, così. No, vabbè. Di video a fare i difetti. Io ho il 780 che è lo stesso da Kevo del VU base 220 che è un Caterpillar, il 275H, il 475H della Icon base VU che sono dei gioielli e tengo spenti mesi e mesi, tu vai a accenderlo, lui è sempre pronto. Questi cacchioli di 440 sono così, capito? Manco il 430 aveva altri difetti, quindi l'ho fatto il televisionale. Ma il 440 l'anno scorso mi ha lasciato appena di tutto. Troia, allucinante. Beh, vabbè. Sono apparecchi di microbio che sono già usurati, c'è le componenti che sono stati già usurati parecchi, almeno che uno li tenga fermi, però quando la cosa è vecchia, mi ricordo l'850 di mio suocero, c'era ancora il nylon e sedili quando me l'ha data, c'era 20.000 km, la usava solo quando andava in Cisia. E se piove vanno la toglieva, faceva il contrario per non bagnarla, capito? I sedili, cazzo, c'avevano il nylon ancora come l'aveva comprata la fabbrica. Perché prima ci lasciavano il nylon, adesso lo fanno più, ma prima la mettevano il nylon. Beh, come me l'ha data, subito la guarnizione della testata è partita, perché era ferma un po' di tempo, si è seccata e l'ho dovuta cambiare. Cambiato quello il motore da un orologio. Lo so. Beh, adesso questa dura le zanne, è stata completamente tutta revisionata, sia il 30 che il 40, capito? Cambiati tutti i componenti, ricontrollate le pizze, ricontrollate tutto, schede, tutto, le legnate eccetera. Le prese 180 in una e 180 l'altra, capito? Il 30 va poco, è rientrato, sarà un paio di mesi fa, e il 40 l'anno scorso, quindi... Adesso sono a posto la radio, durano alla grande. Però se tu non li usi, non li accendi, non le fai andare in trasmissione, soprattutto perché non è importante solo accenderla, ok, caricare i condensatori, farla andare anche in trasmissione la radio. Il circuito deve lavorare, la DC, tutti i microprocessori, tutte le cose. Altrimenti non va, capito? La cordata d'antenna, anche se uno ha stazionarie, un buono che va a girare, va a andare da un'altra da rete, un'altra da net, ogni tanto è una fesseria, è libero, togli il coperchio, che lo metti appena appena di grasso di vasellina, lo metti sugli ingranaggetti, queste cose bisogna fare con le radio, perché sennò, capito, ogni, non dico ma, ogni anno lo togli il coperchio lo stesso, lo dai una passata di spray antiossidante, quello buono, non svitano quello buono proprio per contatti sopra dove ci sono tutte le spinettine, quello lo riserva, capito? Queste cose, queste fesserie che però vanno fatte. E anche io ce le faccio, Claudio, con lo spray, quello per contatti, quello che si asciuga, non quello oleoso, quello che si asciuga, mi metto quello lì, prendo una spruzzata d'aria e poi quello lì. Esatto, è importante per i contatti, per le spinette, 440 ne ha tantissime, tutto spinette all'interno, che vanno collegate tutte alle schede, per tutti i circuiti, eccetera. Quelli vanno ogni tanto con calma, piano piano, pronti, dato lo spray, puliti, capito? Quindi io quello facevo spesso, ogni anno, lo facevo aprire, pulire bene la ventola, dalla prova, perché la ventola si attira, quindi diventa quella, fa quella lana, no? Sul motorino, e la rende anche rumorosa, queste fesserie. Adesso vabbè, questo è già un anno che è stato revisionato, quindi non mi preoccupo, però un po' lo apro e controllo dentro se c'è polvere, se sono da lubrificare, eccetera. Vabbè, mettere le 7 insomma, vabbè, non è entrato nessuno, a quelle 7:30 a Q di Marco, e non c'è nessuno, la mazza che te ne vari, a te al cuscino. E Natalino non l'ha risolto? No, Natalino è in stand by, va bene così, sta costruendo l'antenna nuova, poi quando è pronto si abbassa quella, si mette quella nuova e vediamo, se disturba così, caro mio. Allora la situazione è messa veramente molto male. Canna da pesca sta facendo? Sì, sì, una bombina. Sì, bella. Non ha dato le foto, un già buon punto. Senza radiali, capito? Un altro elemento in più, in modo che sollevi all'impicco e poi vediamo come si comporta. Speriamo che vada bene e che il problema sia quell'antenna lì, che i radiali sono troppo bassi e quindi vanno a disturbare l'antenna TV. L'unica sarebbe stata metterla sul tetto, ma se non è possibile come fai? Oh, via. Bisognava chiamare una di quelle scale aeree, grazie, poi per la capisci, la Bullecchi. La scala aerea avrei fatto un capolavoro lì. In estate, così come mi non mi basta in macchina la scala aerea all'altezza dove è agganciata l'antenna, quella lì la sgancio, sento un altro tubo da 4 metri telescopico, sollevo, metto i radiali, metto i tiranti, e io penso che non il tubo già abbia di su, perché il problema è solo lì, è troppo bassa, troppo bassa, supera di 50 cm il cornicione, capito? Ma purtroppo non avevamo altre alternative. Beh, è come quando l'avevo messa Daniele, te lo ricordi che avevamo tutti i radiali, un casino per me. Perché quella di Gabriele, di Daniele era 45 gradi per la mantova, capito? Noi lo so, no, ma lì viene lì un bel lavoro, perché come montata è eterna. Il problema è che è bassa perché non c'è un'altra possibilità di salire su, mettere i tiranti e tirare ancora sul tubo, quindi non puoi tirare quell'antenna, è molto debole, capito? Tu più la tiri su senza radiali, ti dici a tutto e si fascia a tutto. Non fa, è debole quell'antenna. È buona ma è debole, è troppo fine. Quindi a quel punto lì conviene anche una pesca che è eterna per il vento, perché in fibra non fa niente, si va all'impicco senza radiare, senza nulla e va bene. Infatti, magari con quella canna da pesca fa furori, perché altra gente che l'ha messa va bene. È un'antenna autocostruita, un'antenna che va benino, un'antenna che ti consente di parlare, ma non è che ti dà grandi soddisfazioni. Cos'è a livello di antenna? Una canna da pesca. Va bene, niente di che. Però se a lui le risolve il problema del TVI, ben venga, capito? Perché il problema che a lui è che i radiali sono attaccati all'antenna TV. E tu mi segni che i radiali in quelle antenne lì comandano tutto, perché il piano di massa, se il piano di massa è troppo basso, un minimo di piano di massa deve vedere almeno 2 metri, un minimo, quello è 50 cm, quindi l'antenna sta irradiando al 50% e sta scaricando tutto sulla massa a terra dove ci sono le antenne TV. Ecco. Avanti. Sì, Capannoci, Rodani, buonasera. Buonasera anche a te. Con chi abbiamo in parlare, perché non ti ho riconosciuto? Da questa parte già nel doppio room in compagnia di Sparviero. Avanti. Sì, ok, buonasera, dai. Marmitone qua, Porto Torres. Marmitone? Kappa. Non ti ho mai sentito. Comunque, buonasera anche a te, ma aspetto la rimano, dai. Ma sei in mano pesante? Sì, Porto Torres qua, aspetto l'imbarco, eh. Ah, Kappa, capito. Fammi ben benino, ma non si è attaccato. No, non abbiamo niente qua, solo radio. No, ma è quello Massimiliano, lì. Ah, ecco, cade vai. Massimiliano Puntoso, hai visto? Ehi, già, ma te li gaggendi, io sono stato attento, non ho risposto, ho messo bene l'orecchio sulla colonna e gli dico, chi c'è Massimiliano a prendere il continentale? L'altra volta l'ho fregato sia lui che Natalino. Ehi, puoi pregare che ero distratto, perché ho il cellulare e normalmente stavo rispondendo. Però poi, cioè, diciamo che all'inizio l'ho un po' intuito, però non ero sicuro, capito? Cappa brioche, dai, questa qui è quella lì, mi hai capito, ho cambiato il radio, l'ho provato. Come va, Cappa? È un bel forte, ho dovuto togliere l'NB perché me lo fai andare in tilt, ma non sei senza eco. Niente, sono un radio, così, ce l'ho disturbo, non disturba nessuno. No, non sei uno stabile come sono io, dai, e non fa l'altro. Tu sei tranquillo, anche se ci sono case vicino, ma sono sempre lontano. Gianni, che c'è radio, non è uscita da un preparatore che abita in un palazzo. E non disturba nessuno, che questa c'è il filtro, è 48. Così è. E mi pare a me, questa non prende colpi. 48, se ti metti uno a fianco, tu non fa vedi più. Bello è vero, perché l'altro giorno c'erano quelli sul canale 20, ero in macchina, ragazzi, non sentivo più nulla. Mi ha fatto un battimento zero blu. È positivo, va bene, va bene, ok. E ce la mettere. Ma c'è l'eco, boh. Aumenta appena la potenza, che basso, perché sto arrivando. No, la tende a essere un pochino compressa la modulazione. Dagli appena più di watt. Guarda a vedere così. Allora vedi che esce più limpida la voce. Ma sto a dire, non lo so, senti dove rende. E la provo poco questa qua, capito? Adesso è bella limpida. Poco fa tendeva a essere un po' più compressa già, no? Casco, Mickey Game bene va così. Se lo metto così al massimo cambio. Va bene lo stesso, non c'è problema. Va bene? Sì che va bene, ottimo per la truppa. Va bene, qualcosa, va bene. Va bene, da giudito. No, va bene, no. Va bene, bravo. Capignare molto perché Marco è normale così, andava va bene così, guarda a vedere qua, infatti gli ho saranno un paio di watt. Mettila a 5 watt quando non usi l'eco, che ti schiarisce molto la modulazione, si abbassa la potenza, la modulazione diventa tipo saturami. Guarda così, ora. Attivita una radio. Posso mettere ancora uno così là, a metà. Guarda, 1, 2, 3, prova. Sì, 9,20 sì. 9,20 con picchi positivi. Molto meglio di prima. Passa così. Cappa. Già, a te bene va così. Prova. Guarda a vedere, radio normale. Qua sei 9,30. 9,30 a bomboletta. Che brutto. Saranno 6-7 watt di postante, no? E modulati? C'ho gli occhiali, non sto dicendo cazzate, sto guardando il segnale, questo è giusto. Cosa qua? Modulati quanto? 30. E questa fino alla MOSFET. Bella. Dagli appena appena di ecco, ma ci vedia così con questa potenza appena. Guarda a vedere. Signor radio. E chi viene alle ore 3? Posso aumentare ancora, guarda. Allora, così al massimo, vedo un po' gli anni, cambio... No, ecco, ce n'è poco. Vedo un po', la cambio... E adesso comincia a sentirsi la coda dell'eco. Prima non si sentiva. Sì, va bene, è una bella radio. Guarda, così l'ho aumentato ancora un pelino, cambio... Così al massimo, Massimiliano. Bella. Yes, facciamo impresse. Abbasso un pochino, tolgo questo. Non c'è una mania che provate in mano laterale, ve se va. E io vado, se già anda. Ho detto, ricordati per sabato, che ci abbiamo quell'impegno. Via, tu... Già ci aggiorniamo per telefono, là. 2:30, 3:20 viene a casa e poi la cosa tutta da proprioscia. Salutatemi a Giuseppe. Ehi, così andiamo a mettere a posto un po' la situazione, vediamo quanto le due. Capito già. Io vado a Massimiliano, vediamo la mano. Ora metto a posto nuovo tutto e poi se ne faremo. Vediamo una bellettina e ce ne scendiamo. Non perché sono tanti a lavoro, a mezzogiorno sono già a casa. E boh. È finito, puoi rientrare domani, abbiglia il culo. Va bene, ok. E beh tu già, come sei messo? La domanda? A posto? No, ho già portato tutto, ho già fatto i documenti, tutto qua. Adesso dovrò fare un altro documento perché c'ho forse anche un altro problema. Ho dolori alle ossa e cose, sicuramente dipende dal diabete. Vabbè, ora di butto, credo come dicevi meglio, già va bene, ok, avanti Massimiliano, lavate di sì. Sì, lavato, sdoggiato e strizzato pure, adesso mi asciugo. Oggi qua l'ho portato un tipo all'ospedale, quando sono andato io, per farmi la medicazione, mi ha fatto questo tipo in sedia a rotelle, un uomo sui 45 anni, che ha detto usciva e vomitava sangue a casa, e aveva anche emorragia di brutto, ma un bel sangue per... E quello già lo sai, tu non ti vuoi segnare niente, polmoni. C'aveva un telo sopra le gambe, tutto pieno, poi gli infermieri stavano correndo con questa sedia a rotelle, correndo, tutti e due, uno che lo teneva, l'altro che correva con la sedia, perché cazzo, se ne stava andando sicuramente, perché tu sì, ma riusciva a spruzzare il sangue, proprio solo sangue. Ecco, non trovo i polmoni già. Chissà se ve l'ha fatta, poveraccio. Già, ti sto mandando un video, ti faccio vedere come arrivi su questa radio. Ti ho registrato. Sì. Ti è arrivato. Che bello, con i cazzi, con quel microfono, tipo quello che ho io. Esce molto bene. Vanno bene quelle radio, se sono a posto. Quello che ho io non ronda, perfetto. Vabbè. Che tu girerai 18 ore, eh? Avanti a tenere l'aria. La maledetta primavera. E ci vediamo. Ma oggi il microfono usando il sistema B+5, io invece mi siano 3 metri e mezzo di cavo. Cazzo, dove fate la lì? E tu, ma scusa un attimo, ma questo microfono ce l'avevi in basso e la radio ce l'avevi sopra l'armadio? No, l'altezza della mensola. Avete mandato a vedere lo Smith e tutti i gocci e mi alzavo in piedi. Cazzo, mica lo sembra che dà, non fa mai lì. No, ti posso avere, sta attento all'apparecchio. Chi è dove mi pigliamo a capo? Mamma mia, come sto. Ci fate due andate dei torrati a porto, sì. Faccio la voce, se mai mi si mangia, cazzo. Ha fatto il suo movimento strano, ha detto, ma qui? Mi che se vediamo tutto? Io, Santa Maria, madre nostra. Per carità. Cis. Beh, già, sono mantenuti questa radio. L'abbiamo sentita, sì, ci sono molti acuti. Più bassi si sarebbero voluti. Vabbè. No, ora ci sto per farti vedere come arrivavi qua. No, il microfono che è buono, già è un buon microfono, si sente che è forte la radio. Forse, non so cosa dovresti fare per farti dare leggermente più di bassi. Devi abbassare leggermente il watt di quella radio. Cazzo, ora ci ho fatto aumentare la salita, ricorrendo la radio di Sandro. L'ho fatti aumentare per avere un riscontro col mio, capito, col 440. No, vabbè, se le chiude magari leggermente, ma non dico di molto, ma provare se le toglie questo acuto che c'ha a me. Prova a vedere, Massimiliano. È passato? Meia. Prova a passare un altro pelo, a vedere. Guarda, 1, 2, 3. Guarda adesso la radio qua. Effettivamente c'è più tonalità medio-bassa. Più corposa arriva. Sì. Allucinante. Se pensavo non c'entrasse nulla con il fatto della radio, magari la radio va un po' distorce, ma strano che cambia anche la cosa. Registra e rifammela sentire, Massimiliano, ti verrebbe. Guarda, adesso c'hai anche i picchi di modulazione, prima eri 9.30 spaccato fisso, adesso sei sceso a 25 e c'hai anche i picchi di modulazione in positivo. Cavagata. Se ti viene bene fammela ascoltare, così mi rendo conto più o meno e faccio le comparazioni. Guarda, fai un passaggio, non lunghissimo. Ehi, attenzione Massimiliano, ascolti già di doppio rum, cambio. C'è più tonalità medio-bassa, il segnale qua non ha cambiato niente, 20 era e 20 è rimasto. Ma ieri mi ha detto che era basso con questa posizione, e poi ha detto è basso, tu l'hai abbassato per lineare, sei arrivato più basso del solito. sai che me l'ha mandato, voglio sentire. No, già stavo regolando lo smitter di una radio che non era mia, capito? E quindi ti ho fatto mettere la potenza standard per poter fare bene la regolazione. Aspetta che l'ascolto. Ehi, Massimiliano, hai ragione, hai ragione. È molto migliore. Te lo sto dicendo, tanto non ti cambia niente, mi da 9.30 a 9.25 non cambia. Però ci sono anche i picchi in positivo di modulazione adesso. Aspetta che vado a fare la pipì. No, ma infatti io la regolazione ce l'avevo sempre così. Poi Claudio gli rimetto di alzarla perché il segnale era basso. Però tanto il segnale non è il suo. Ho detto perché l'ho abbassata che poco fa ci avevo attaccato il lineare. Quindi l'ho abbassata per quello, per non distorcere. E mi ha detto non lo alzala perché va bene. E io l'ho già alzata. E invece probabilmente regolandola al minimo, tante volte regolando al massimo le cose e poi va a finire che ti rubi la radio. Ma infatti ci avevi un bel acuti, capito? Invece adesso ti ha dato quei passi. E in più ci vedi anche l'ago che si muove quando parli, capito? Sì, sì, ma già si vede, si vede, si vede. No, tu ti alza piccolo anche io. Vai, vai, tranquillo. Io per te non ci posso andare. Eccomi, eccomi, adesso sono 7.20. Fico, che si tende a me a portarlo, che... Mamma mia, aspetta, no, aspetta. Mi c'è, ma ci vediamo, c'è me. Così. Aspetta, mi stava lei, giù, giù, giù. Ehi, dillo a Faura, bra. Buonasera, comunque. Ciao Gianni, ciao, ci vediamo. Vabbè, fra, dai, sono piaciuto a te. Benino, benino, benino anche di... tutto, dai. Muscoloso, è bello, ma ne aggarri su cani. Ma da nessuno, manco di cristiani, un di cristiani non avanti. Vabbè, perché loro hanno diritto. Ah, io li faccio pasta completo, li metto la pasta asciutta, la pasta cotta, però bollita senza sale, crocchette, la carne, fetti di pollo e via. E lui li mangia tranquillo. Ecco, ma io pensavo che era tutto quello che c'era... Claudio, infatti è tutto diverso da quello. È un po' sui dello stesso, appartiene alla stessa famiglia, però sono diversi, sono lo sui di tutti e due. Infatti è quello. Anche Claudio. Ehi, ehi, mi ha mandato la foto, che non si ne vuole andare, è vicino a me, vieni. È vicino a me qua, sì, sono tutti e due molosci, però uno è un modello inglese e l'altro non sa te. Capito? Però sono della stessa cosa, dai. Categoria dei molossi. C'hanno il cervello vicino al naso. E sono cani molto delicati, già. E il mio matessi. Il mio solo una volta alla settimana. Mangia la carne, tutti gli altri giorni mangia le crocchette di pesce. Pesce questo mese, vabbè, c'è già due mesi, sta mangiando le crocchette di carne, che è pure pollo e coniglio, quindi carne bianca. Va bene, però il mio è una razza un po' particolare, tende a ingrassare un bel capito. E poi diventa pesanti, allora guardate, manca così. Avanti Massimiliano. È andato in bagno Massimiliano. Sono grossi di stazza, claro, non è che perché mangiano. Sono proprio grossi di stazza quelli. Ma Filippo Simionda, infatti la cosa che mi ha sempre detto il veterinario, quello deve mangiare basta, solo quando stiamo mangiando sta sempre sotto il tavolo, domandendo, difendelo ogni tanto un pezzo di pane, oppure la frutta, poi va matto, sotto per la mela, la pera, il melone, la banana, se viene bucci se la mangia in pria, capito? E quindi bisogna stare molto attenti. E poi avesse varia una volta la settimana le fa il frullato lo stesso di frutta, capito già? Però insieme alla frutta lo fa mela, pera, per esempio, no? Però le mette anche le carote col frullatore. E si dove fare l'inganni gelato, lo mette nella sua ciotola, due secondi non ce n'è più, perché le fa molto bene, capite, queste cose. E vabbè, poi mangia pure l'usella di Romeo mi fra, capito? Ma imbucciato, però, lo rimagna la gola di usella di cui voglio, no, quello bianco, capito? Il cuore le piace. Le carote le metto in mezzo alla roba da mangiare e anche le patate, le carote e qualche volta anche le zucchine, però saltuariamente, non sempre, perché mi ha detto il veterinario che contengono molte fibre ed è quello che lo fa diarrea. E le carote e tutte queste verdure qua hanno fibre, hanno molte fibre. La mela dagliela con la buccia, non gliela sbucciare, lavagliela bene e poi la dai con la buccia, che lui le fa bene la buccia della mela, la pera con la buccia, capito? Fa molto bene. Cosa c'è? Oh, a capo basso, pare che la gente è tutto, ma offri, adesso andiamo, offri, vieni qua. Ti faccio la foto a testa bassa, pare che l'aglia le scutte, mirano, già ti portano, va, offeso, va bene, dici che mi preparo, se no mi fa diventare triste questo cane, mamma mia, tu dico un duio, dico è una cosa allucinante, se non la contenti, guarda, è allucinante. Che devo andare a prendere mia figlia con mia moglie alla scuola di ballo. Al limite, se ci siete più tardi, se no ritenetevi salutati. Ciao Massimiliano, buona serata, dai, buona continuazione. Ma tutti i lì, Badari? Lunedì c'è lezione normale, il martedì c'è lezione privata e il mercoledì lezione normale, 5:30-9, il lunedì e il mercoledì. Il martedì a lezione privata. Sì, ma tu andi di venire lì? Venire lì? Oggi è mercoledì, mica. Non è vero che è mercoledì, infatti c'è anche lunedì, martedì, mercoledì, esatto. Ehi, ehi, va bene, lasciami, dai, ci aggiorniamo. Anch'io vado a prepararmi a portare il cane, No, lui non abbaia, non dice niente. Sta lì vicino alla porta, a testa bassa, dove c'è il guinzaglio appeso, capito? Mi rompe le scatole. Ogni tanto la tarugava, ma abbaia, ma sta lì a testa che si tende, non mi vede se è Ianna. È una cosa allucinante, così fa la mattina, quando si sveglia, inizia a stare nella porta e non si muove dalla porta. Vabbè, dai, fra, momentaneamente vi saluto, anche a te già, se ci siete ci sentiamo dopo. Io, dai, anda a me, via, vabbè, dai, io anche devo scendere a portarlo, non è che non già sei gara, stammi da letto. Vedi dove sono i figli. Allora, il giardino è da fare i battisioni. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao, fra. Ciao, caro. Ciao, è per l'Assoliano che sta andando via. Ci sentiamo. Va bene, dai, se sta chiudendo, allora ci sentiamo. Ciao, Gianni. E ciao, Claudio. E io l'altro po' mi posso trattare, che ora so. Sì, 7:25 sono. Io ho visto in mezzo al sacco perché vanno a mangiare tu, devono andare a lavorare anche. Va bene, riprendi il gioco. Io ce l'ho detto, ci posso stare. Ma nella notte ci avete stato? Sì, oggi abbiamo la notte. Cosa c'è la notte qua? Io non capisco perché il dottore mi ha fatto un bel così bisambulato, però non alla porta. Stavo tutto il giorno con questo vuoto allo stomaco, proprio cazzo stanco, anche se riposavo mi sconvolgeva tutto. Vabbè, è diverso da fare in tribunata e fare come facevamo noi, è molto molto molto diverso. Perché diciamo è molto impegnativo come lavoro. Anche se di tabulanza, se c'è il movimento è molto impegnativo, però è tutto diverso da uno all'altro, perché quando rientriamo uscire la mattina, un'urgenza dopo l'altra, incidenti stradali, di quello, quell'altro, quello che ha picchiato la moglie, l'ha accoltellata, l'altro cazzo che... Insomma, uno dopo l'altro, ce l'ha presente e poi alla fine della giornata ci hanno fatto fare un viaggio a Cagliari, un trasporto di uno che stava morendo a casa sua. Buonasera. L'hanno fatto fare il trasporto di ambulanza, una cosa del genere. Un trasporto, sì sì. E allora? E vabbè, già ne parliamo verticale con il centro ubriaco. Non porti solo gente che sta morendo. Buonasera. Ciao Luca, ciao. Siamo a Cumari, eh? Certo? Vabbè già, ciao Franco. Ciao Luca, me l'ho ascoltato, non so tanto. E allora? Vabbè, la pizzata com'è andata già? La pizzata, bene, dai, ci siamo divertiti. Diciamo che la pizzeria, sembrava aver fatto i geriatri a gente anziana, che non c'era un gioco. Io infatti l'ho detto, andiamo dove c'è karaoke, dove si canta, dove... A me pare che sono diverso, da loro sono diverso. Mi piace più divertirmi. La mia 25 non mi può andare perché mi ha detto che ci sono donne. Io, tu, già qua ti sta ascoltando, le donne non ce ne sono. No, non ce ne sono. Almeno ci fossero. Sì, ho detto tu, hai detto che ci sono donne. Ma sto appoggiando, non ha detto, vai. E poi se voleva... Tranquillo, potevo venire anche lì, non c'era problema. C'era problema. No, lo sai qual è il fatto? Via, solo che a me, dico la verità, l'ambiente non è che mi è piaciuto molto. Non c'era gente giovane, non c'era movimento. Io già lo sai come sono fatto, mi piace cantare, anche se non canto al microfono. Per dire, se c'è musica dal vivo, canti in greca, cosa, ti ripeto. Stavo dicendo che non è vero quello che ha detto. Matto, vai, io non ci credo. No, perché ho detto di andare, io me ne sarei uscita con le mie amiche, ho cambiato subito idea. Vabbè, comunque lo organizziamo, là, non c'è problema. Luca, si scoprono gli altarini. sì. Le mani usi a te, uia. Dunque, lì dove ci sono anche donne, ma ci sono anche donne comunque. Sì. Tutto quando ce ne stiamo per andare, sono state due belle ragazze, però con due bici. Questi qui erano tutti vestiti strani, però uno c'era pantaloni gialli, c'erano due persone anziane, però volevano fare i giovani, dai. E c'avevano queste due belle ragazze sui 30 anni, 35, io penso che fossero delle accompagnatrici, quelle pagate. Sì, addirittura. Niente, ci sono quelle che fanno le escort. Fatto vedere tante volte anche nei programmi, ci fanno pagare e vanno con uomini anziani e roba del genere e lo fanno tutto per l'apparenza, per farci vedere dagli altri che c'hanno la donna e le pagano, non fanno manco niente, ci sono quelle vabbè che ci vanno anche a letto, ma ci sono quelle che proprio non fanno niente. E si viene di razza? Si fanno pagare, per dire, una volta a Furum c'era questa ragazza che studiava all'università e lei ha detto che lo faceva per pagarsi gli studi universitari a fare la escort, accompagnava questo tipo, andava sempre con lo stesso e la pagava un bel bene, capito? Tutti i sabati erano impegnati con lui e gli dava un meridina. Ogni volta che usciva si faceva un bel po' di soldi, ricevevano per gli studi e la stavano accusando, capito, che era poco serio come lavoro, eccetera eccetera. Certo, è un casino già, è un casino. Vabbè, queste persone hanno i soldi da buttare, come Berlusconi, capito? I biazzi da Garri Flecca, solo che questi non fanno niente. E anche Berlusconi, aspettavo, non so se è ancora attivo. Comunque già ci sono. Ma questa ragazza ha detto che ci sono delle sue amiche che praticamente ci andavano anche a letto con i tipi, però lei non accetta quello. Sono messi d'accordo già dall'inizio che faceva finta praticamente di essere la ragazza, si abbracciavano così, per farsi vedere, per tutta apparenza, no? Per l'apparenza verso gli altri, perché la gente parla, allora quello che vede dice, ah, qui c'è una bella ragazza, che l'hai capito? Sì, è vero, cioè, vivono nel mondo delle favole questa gente, capito? Ok, Gianni. Ehi, a fra. Ehi, a me, devo lasciare che devo andare a cena. prima, con lavoro. Non lo so già, ma penso di no. Io esco il venerdì, anche il sabato, dipende dalla Puglia anche. Ma io adesso che sono in fili, capito, ne posso approfittare, perché magari anche se succede il sabato c'è qualche cosa, la domenica, vabbè, di solito non lavoro, ma qualche volta devo anche lavorare. E quindi capita così. Vabbè, sarà per poco, perché sto per andare in pensione, lo sai. Ah ecco, buono sapersi, già ne hai i contributi alla Puglia. Sì. Tra poco vado, e anche per il piede. Questo piede mi sta facendo operare. Mi ha detto il dottore che se faccio sforzi non guarirà mai. Devo stare certamente il peso del corpo sopra. Infatti adesso che sto riposando mi si sta chiudendo tutto. Andate a coricarvi, io. Devo ora rientrare, sono qui. Buonasera a tutti, era a Porto Torres a farmi un giretto a metà serata, dai, bello, bello, molto bello, mare più pulito perché non ci sono i bagnanti, bello, mi fa quasi venire voglia di andare a pescare. Marco, lascia stare le Porto Torres che sono tutti già la Medusa. Sì, no, io magari a buscarne una, dai. Ma non per impegnarsi, ricordati, cosa... cazzo, tutti ci vogliono, almeno quello che ho avuto io si volevano sposare, io, non ti nandi. Già al matrimonio stavano pensando, a 18-20 anni quelli, non ti nandi. Al matrimonio no, ma la convivenza magari, ci può anche stare, dai. E se vuoi fare una persona, conviverci va bene. Il matrimonio oramai abbiamo già dato. Ehi, quando si avrò la casa? Ah, la mamma chiaramente ha detto, le ragazze fuori da qui, uscite, andate in giro, ma qui niente. Così ha detto. Mamma, visto quella esperienza brutta con quella tipa, si ha detto, qui vi tira cosa per fuori di qua. Chiaro e semplice. Quando è sicuro che le cose stanno andando avanti, non è che la porta all'inizio. Io lo posso fare perché non mi sfida nessuno. Eia. Non mi piacciono più queste cose, che anche quella mi portava subito a mangiare dai genitori, al mare dai genitori, a fare scampagnate con i genitori, non mi piaceva. Infatti anche la madre gli ha detto, il prossimo ragazzo dice ne passerà più di tempo prima di portarlo a casa. Capito? Ogni ragazzo che aveva se lo portava a casa a mangiare, al mare, a coso, non mi piace così. Mi ha deluso proprio, va. Avanti. Dai, io sto controllando un telefono, Gianni, che tra un po' vado a mangiare anche, che è già, non dico è tardi, però dopo segniamo un telefono. Io devo cercare di aiutarmi a mangiare. Cioè, non esci bene comunque, esci tutto. Guarda adesso, come esco, 1, 2, 3, guarda. Riprova, se c'è portante. Poi sparisce. È un crepitio. Perché probabilmente c'ha bisogno un po' di CDC. Microfonino. Sì. Vabbè. Noia. Ma poi comunque mi è piaciuto il concerto di Fausto Leali. Ha fatto un bel concerto e poi molto, diciamo, col pubblico è molto, come si dice, va? Disponibile. Ha fatto le fotografie con la gente, e chi lo fa? Ma se come finiscono quello se ne vanno gli altri, manco una firma metto, niente, difficile che ti mettano anche l'autografo. Invece lui si è fatto le fotografie, ha aspettato, l'ha fatto con tutti, si è fatto il giro del pubblico, non si è addirittura di avuto dare un bacio, se ne l'ha dato. Ho visto le foto. No, è stato molto disponibile. E poi cazzo, il problema che c'ha una voce allucinante. Ma quando la conservano, dai, quando ce l'hanno la conservano quella voce. Anche Albano, per dire, che a me è un genere che non mi piace quello che fa, però c'ha una voce, è bellissima la voce sua, però non è un genere che a me piace. Venire, si è fatto i soldini, un paio d'ore, capito, e lui si fanno i soldi. Ma poi ha fatto un concerto a Bologna per questo suo collega che praticamente i genitori non potevano più pagare l'università e hanno fatto una band. C'era un paio che suonavano, uno diceva la suonava la batteria, l'altro che e li cantava. E hanno fatto il concerto in piazza e dei soldi che praticamente gli ha dato, quelli del quartiere che hanno organizzato una festa per una santa, adesso non mi ricordo che santa era, si erano devoluti a questo ragazzo che praticamente se no se ne doveva andare dall'università non poteva continuare, che mancavano 2 o 3 anni. Già, sai cos'è? Che non le fanno venire di gioco, non ci vengono, capito? Ma ti viene venuto Mango, l'ha venuto così, Mango? Sì, Mango, qualche anno fa. Ma vabbè, in questo momento lì già ne vengono. Vabbè, adesso lo stanno aggiustando. Infatti, vabbè, già, ci vogliamo pagati questi, Poi, tu conta, minimo lui ci avrà preso 16.000 euro, poi il service non lo conti, il palco, tutto l'impianto, minimo lui ci avrà minimo 3-4.000 euro, minimo, poi il batterista, il tastierista, il... diciamo, ognuno di loro ci avrà preso buoni buoni 1.000 rotti euro. Se non di più. Comunque anche di Punti organizza dei bei concerti, anche a San Giovanni. Quando fanno la festa di Punti a San Giovanni ci sono sempre dei cantanti, anche comici e cose, sempre roba... Adesso quest'anno c'è la cosa, come si chiama? Ma non mi viene, vabbè. Comunque l'ho visto, il concerto che c'era quest'anno. Chi è che stava parlando? Esce tutto quanto male, sta parlando. Ok. Non so chi era, boh. Qua c'era Giulio, mi sembra anche Giulio dalla voce, però usciva tutto distorto, non so se tu li senti così. Ciao, ciao, a domani. Ah, già senti, ciao Giulio. È uscito tutto quanto strano, non si capiva cosa dire. Vabbè, non fa niente. Volevo l'altro il volume. Ciao, ciao, ciao Luca. Ciao Gianni, chi c'è poi? Vabbè Franco forse, vabbè, ciao a tutti, dai, ci sentiamo domani. Ciao Giù, ciao, ci sentiamo. E fanno dei bei concerti anche a San Giovanni, ci sono dei cantanti giovani. Quest'anno lo stesso hanno fatto anche a San Giovanni, hanno fatto bella la festa. Non so cosa parlare. Luca, Luca, Luca. Sei scito. Deve essere impegnato. Lui a Marco, allora, com'è così tardi? Mi ha detto che viene a Porto Autore, che l'ha durato. Diciamo che fammi fare mente locale, forse 4:30 sono partito, alle 5 ero lì fino alle 6:30, così una passeggiata, mi sono guardato il mare, bello, bello. Quello scoglio lungo è ancora più bello perché sai, lo vedi da vicino il mare, poi pulito pulito. Anche in primavera, quando non c'è ancora tutta la gente che va al mare, è di pulito, cristallino, un bijou, però c'è più freddo giustamente, e io sono molto freddoloso, io finché non è Ferragosto bagno, no vabbè, lo faccio luglio, agosto, giugno anche se è caldo, capito? Ad ottobre adesso io ho colleghi che sono andati, hanno mandato le fotografie facendo sul bagno. Alla Pelosa, perché vanno così, dice, perché c'è poca gente e si divertono di più. Sì, la Pelosa, ah, la cosa Pelosa? Aspetta un attimo, Natalino, ci sei? No, forse non c'è, gli avevo mandato anche una foto da là, una foto da Porto Torres, ma non l'ha manco guardata, non ci sono i segni di spunta blu, forse è uscito con la moglie, e non si sa, non si sa. E sarà in paranoia perché non può parlare, già l'hai visto. E infatti mi ha detto, passa là, PMR, ma io ero, non ci arriva lì, da Porto Torres, a lui, a Pomponio posso arrivare che è in alto, ma a lui no, è infossato lì, è chiuso, no? Non esiste proprio. Ma perché ancora a Pavano ci stanno bene? Io burro, non l'ho più acceso, niente, ci ho tutti buttati gli apparecchi così. È perché poco fa sono entrato a salutare, una volta arrivato a Sassari, ho salutato, prima li stavo ascoltando con il ricevitore, avevo il ricevitore appresso, la telavicolare, perché ascoltare poi ci mancherebbe che non puoi ascoltare. E all'ingresso, no, diciamo molto prima, all'ingresso di Sassari ho cominciato a sentire qualcuno, c'era Pomponio, ho abbreccato Graziano, poi sono entrati gli altri, dai. Bene, ma ogni tanto per salutare, per fare due parole si può entrare, no? Non succede niente. Bene, c'ho il naso sempre chiuso, è una cosa allucinante. A rinagina devo andare avanti. La biocco, pensa che ancora non ho mangiato. Appena mangio mi viene la biocco. Anzi, fra 5 minuti devo scaldare la pizza. La bocca non ti si chiude. Cioè, devi ancora pranzare. Devo ancora pranzare, sì. Noi ormai abbiamo preso questi orari. Zio Claudio, devi a portare il cane? Sì, sono andato a portare il cane. Già ti ho sentito che sei entrato a salutare, non ti preoccupare. Ti tengo sotto controllo. Se no che torre di controllo saresti? Allora, ti ho pagato. E tu già non vuoi portarlo ancora, presto. Le ho, porto adesso. Cazzo già, se non ti metti a posto col microfono te ne fondo più, Mi vai, gatto Giorgio. Io già, la parola giusta è un crepitio, tipico di un filo che non fa bene contatto, mi. Ma non accetta nulla il filo, è E poi di rapporto, ma cosa c'è il cavo lungo? Dov'è che schiacci la portante? Dal letto? Ma che microfono è? Sadetta? Ma vabbè, no, se non stavo dicendo, ma è possibile che la ZG venda roba e non vende i cambi? Non vende nemmeno il PTT interno, non vende nulla, ZG è roba usa e getta, quando si rompe il cellulare, quando si rompe roba metà meccanica tipo il PTT, mi. Ma se io metto questo nuovo fisso, lo fa Claudio, se lo metto nel fisso così? No, si sente sempre, ma guarda che te lo dico, no. Il Saletta ce l'ha di difetto qualcosa, quindi controllatelo perché a Giulio gli si è rotto. Sì, quando si rompe ne ho altri di più, non c'è problema. E io mi sono un agio, vado a vedere il microfono, un agio 4 di Issi. Oh, fate quello che ho fatto io a Giulio con la KB23, gli si è rotto, gli si è rotto proprio nella lamellina dove gracchiava. Vabbè, il microfono manca, io, tu riesco manca. Lo vedi Marco quando ti ho sentito io, da dove stavi parlando? Che distanza eri? No, a casa, quando sono saltato lì ero a casa. No, mi sono portato il ricevitore, sono andato a Porto Torres a vedere il mare, bello lo scoglio lungo, bello Palai. È più bella quando non c'è gente e l'acqua è anche più pulita. Certo, da solo sono andato, se avessi una piscina per uscire assieme sarebbe molto meglio pigliare un gelato, un caffè assieme, mi devo organizzare, inutile. Bene. Radiatore in lungo, li ho sentiti solo entrando a Sassari, per un attimo, poi più niente. E da quando c'è sto digitale, stanno parlando in digitale spesso, e non stanno più entrando, è chiaro, però poi ce li buttiamo questi scanner, eh? Non so niente, io ti ho detto, io sordo sono, non so niente. Guarda, io avevo il, come si chiama, il PL660, quello che diceva l'HF, il Texun, poi l'ho dato, però almeno quando ce l'avevo mi ascoltavo i 40 metri, 20 metri, 80 metri, poi ci ho fatto un po' male a darlo, perché ogni tanto ne sento la mancanza. Texun PL660, tutto, riceve tutto, tutta l'HF in bande laterali e AM, mi mette mettevo l'antenna veicolare e ascoltavo 40 metri, tutte le bande HF. Ogni tanto mi viene nostalgia, sai? Poi quando ce l'avevo dicevo, oh, non ho voglia di ascoltare, insomma. Anche perché avendo dato all'857, proprio non ho nulla per ascoltare le bande amatoriali in HF, non ho più nulla. Vabbè, si vedrà, un giorno se ho nostalgia me lo ricompro il Tech Zoom. È un apparecchietto semplice, costa abbastanza poco, poi con l'antenna esterna rende molto molto bene, anche veicolare. Ce l'avevi HF, va a vedere le cose, voi ve li venditi, tra poco cosa serve, poi ti mangi i soldi e non c'è né uno né l'altro. Assolutamente, per me è impossibile fare una cosa del genere. Posso vendere per ricomprare, cosa migliore, ma vendere per rimanere senza? Assolutamente no. Sai com'è, però il Texun è un ricevitore, lo posso portare in macchina. Ma se mi porto l'857 in macchina me lo beccano. Sarebbe stata la fine. Anche se lo porti senza microfono, riceve lo stesso, no? E molti carabinieri sono radiatori, lo conoscono che è un trasmettitore, capito? E infatti ha detto bene, i soldi me li sono guadagnati, ho speso in cagate e non mi è rimasto niente, vedi? Però sai, quell'apparecchio era stato un cattivo acquisto già all'inizio, era stata una follia, capito? Va bene, riprendi Gianni. E allora ti ha pagato la circolazione della moto? No, me li ero mangiati, già prima me li ero tutti mangiati. Ma almeno mangiandosi le roba più utile, ti risparmi roba buona, che ne so. E vabbè, io sono sempre tira e molla, indeciso su tutto, poi vendo. No, guarda, dell'857 non me ne sono pentito, tanto non lo potevo manco usare. A parte, poi a casa riceve male, ma in macchina con l'antenna tarata per i 40 metri era un bijou. Quando andavo sotto casa di Sandro, un bijou, riceveva talmente bene, non riceveva neanche QRM. A proposito, ho dato un'occhiata, hai ragione, sulla casa di Sandro non ci sono più antenne, non c'è più niente. Certo, non c'è più niente. Tolte perché esteticamente sono brutte, quindi adesso si deve organizzare per metterla in campagna e basta. Sì, ma io non sto parlando del 857, hai fatto una cagata a comprarlo perché non te ne fai niente, è un quadribano. Io sto parlando del 140, te l'hai venduto, la farosa, la magnate di là, è nuda. Una radio così è utile per casa, capito? 030, dove ti ascolti tutte le cose, lasci senza microfono. E ti usi il baracchino a fianco, quando hai voglia di usare quello, le agganci il microfono e lo usi. No, non metto, gli metto tutto, ma non metto gli radio, io ne ho venduto tante, ma per comprare roba superiore, ma non sono mai rimasto senza HF, e come faccio mai senza HF? Sarebbe un danno per me allucinante. Vai già. Io sono così, io vendo e compro, però adesso mi sono fermato, c'ho tutta la stazione completa, che cavolo me lo fa fare comprare altra roba, tanto io ne uso sempre uno, ne ho 3, 4, 5, ne uso sempre uno. No, già tu non c'hai niente a completo vuol dire quando c'hai un VHF, un UHF, un HF e un baracchino, là sei completo, tu vai tutto baracchini, tu hai trovato la scorta dei baracchini invece di Massimiliano, io vi sto dicendo a tutti e due che ce l'avevate sia il baracchino che l'HF, avete fatto male a vendere, un HF ci vuole sempre in stazione, capito? Giusto per ascoltare, e basta, però ci vuole. Cosa posso avere HF? Sacci video uso baracchini, però sono baracchini che a me piacciono e a me mi comprano l'occhio, perché quando io ho un modulo devo avere anche l'occhio, vuole la sua parte, diceva quello, no? Sono cose che a me piacciono, quindi per me è completo così. Completo così perché si dice qui, ma per me completo vuol dire un'altra cosa. No, io l'occhio non lo posso tenere solo da una parte, devo girare a destra a sinistra perché è talmente tanto che mi viene male anche a girarmi. Però sono radioamatore, quindi giusto che l'avevo fatto. Mentre Marco invece che un pirata da quando è nato, capito? Perché te l'hai venduto il 140, ma maniato il Raptor e non venne una nell'altra. Guarda, io del 140 rimpiango solo lo Smitter. Lì potevi dare controlli perlomeno affidabili, ma per il resto era una cheffere il cacchio, rumoroso, in ascolto, anche i 27, non aveva squelch, una M, no. Quello non lo ripiace, solo lo Smitter era un bijou per i controlli, per il resto passa via. E poi sai cos'è, a me piace molto ascoltare dalla macchina, quindi il Texun era veramente un oggettino carino, ma è ricomprabile in qualsiasi momento, ti davano anche cosa ti davano? Ti davano anche una piccola long wire da usare, no? Con la pinzetta attaccare un ramo, quello che volevi, per ascoltare una mini long wire, vabbè, un mini dipolino, anzi un monopolo era, cerca di capire, no? E sentivi bene, poi gli 80 metri di notte avevo ascoltato da San Francesco. Ehi, ho preso per antenna esterna, quindi puoi mettere quella Proxel Pro X1, che fa 10, boh, forse 15, 20, 40, 80 metri. E riceveva veramente bene, lo ribadisco, dai. Va bene, chi c'è rimasto qua? Non c'è nessuno, io sto già. E cosa ti lamenti, rumorosa voce? Un baracchino a sintonia continua al 140. Per te ce ne avanza. Io non posso usare un 140, ma neanche un 440, una HF. Perché sono un radio che, vabbè, il mio già è 440, forse a differenza di tanti altri, è completo di tutto, e c'ha tutti i filtri, anche con gli SSB. Capito? È chiaro che ora levantano sia contento di usare un 140 o 440 HF, come sono segnalini piccoli che devi cercare di tirarli fuori e di avere un HF con le contropalle, altrimenti non riesci a fare il collegamento, perché appunto come hai detto tu giustamente quelle radio sono rumorose, non hanno la sensibilità di un digitale di ultima generazione come c'ho io, sono analogici e quindi rispondono per analogico e quindi hanno la loro rumorosità. No, per la 27 non ce n'è più nessuno, dall'85 che uso prima il 430 e poi il 440, quindi per me sono sempre baracchini a sintonia continua che però sono molto, vanno molto meglio dei baracchini normali, nonostante abbia anche dei baracchini buoni, capito? Però ognuno fa la scelta, fate bene farla perché è meglio stare sempre in guardia, questi HF a casa non avendo la licenza, la patente, non si sa mai che qualche imbecille busci la porta. E beh già, ma uscendo stai? Sto scrivendo un messaggio. Tu hai capito qualcosa, Marco? Sì, ha detto che è lì e che sta scrivendo un messaggio. Sì, c'è un crepitio, ma è all'inizio, nel primo secondo di portante, o poco più, dai. Dicevo, Claudio, non lo ripiango, te l'ho detto, io sono CB e uso i baracchini, basta. Per ascoltare preferisco altre cose. Roba che puoi portare fuori legalmente, che puoi mettere in macchina per ricevere. Come quel ricevitorino Texun che ti ho detto, tutto lì. Oia, vabbè madre, leia. Cos'è? Non c'era perché? No, oh, sta passando e sto scaldando la pizza, dai. Cosa ti volevo dire? Magari fossi stato pirata, ma pirata vero, tipo 45 metri, quella roba lì, che pirata è uno che va in PMR? Pirata, il vero pirata è pirata forte, va su frequenze vietatissime, capito? Non assegnate a lui, quello è il vero, la vera pirateria. Gli anni 80, mi ricordo su 146 MHz la greffetta di Piratoni dice mi entra in deghiccia, io ho pigliato Palluguru, capito? Perché usavano i 146 MHz, quando entrava qualche preda tipo Gambero, io ho pigliato Palluguru. Ehi, io ho fatto il pirata. quindi ho dovuto, sono dovuto passare i rimedi, capito? Che con me era fisso qua sotto, non c'era Cristo, ogni giorno, si metteva lì dove erano costruito il riflettore dell'Aesso, lì il telescopico sollevato, come dentro al Dio, ring il campanello, alla fine mi sono rotto le palle, quindi ho capito, ma non sono mai andato a disturbare le frequenze amatoriali, però mi ha giurato di batteria, sia in V, in U e anche F. Quindi Marco, poi alla fine è chiaro che prendi una via diversa, capito? Anche se io non ho mai esercitato a livello degli altri, arrivato di Sassari, ma a me interessava la carta per la retenzione, poi o come una futtia, ma poco mi interessa tuttora, quindi figurati. E vabbè, va bene. Natalino mi ha dato la foto, a buon punto, l'ha mandata? Sì, ho visto una bobina fatta col caso e poi che cos'altro? Sì, la bobina ho visto, lei. Poi pezzi di cavo così che non so cosa siano. Forse il baffo, quel baffo che ha l'antenna a un certo punto, non mi ricordo. Poi mi sono ricordato di una cosa, che Natalino non ha avuto modo di provare quel filtro a 5 celle. Avrei voluto che lo provasse, almeno a togliersi, a sapere funziona o non funziona il suo filtro. Non funziona, l'ho provato io, non funziona un cazzo. Ma tu cos'è lo ZG? Questo è diverso già, è più professionale, dai, magari non serve a nulla, ma non lo so. Purtroppo qua io già non facendone, non posso sapere se funziona o no. Con Natalino l'unica volta che l'ho passato a darglielo era uscito. E allora ho detto pazienza, ci sarà un'altra occasione. Io ne ho provato anche uno autocostruito da una radio amatore, l'ho preso da internet. Oltre a quella 5 celle ne ho provato uno, mi pare a 6 o 7 celle. Costruito da un radio amatore, autocostruito, ha detto che funzionava al 100%, l'aveva realizzato lui, ne aveva fatto diversi e hanno funzionato da tutte le parti, invece da me non ha funzionato. Diciamo che un po' lo limitava, ma non del tutto. Eia, cioè non è risolutivo, dai, non è risolutivo. Sì, praticamente un filtro a pi greco dovrebbe essere ripetuto varie volte, no? Ma tu già, ce l'hai ancora il capo, o l'avevi dato anche tu? Oh, ciao ragazzi, dai, buona cena, alla prossima, sto chiudendo, ciao, ciao Claudio. No, eccolo che c'ha Valerio il mio, l'ho venuto a Claudio e poi Claudio l'ha dato a Valerio. Ciao! Ciao Luca, buona serata. Ciao Luca, non so dove c'è anche tu. Ehi, Acra, ero qua, stavo controllando il telefono, dai, ci sentiamo alle prossime, buona cenare, ciao, ciao già. Ciao, ciao. Ciao Lucia, alle prossime. Cosa ho dato io? Dico, l'ho venuto a te io, e adesso c'era Valerio, non era tu. Ah, sì. L'avevo preso io, ma sapevo già che doveva andare, capito? Non me l'avevo preso per tenerlo. Sì, ce l'ho valido il tuo. Nuovissimo ancora, guarda, bellissimo. Funzionante al 100%. Va bene. Quello di Marco invece, di chi era quello di Marco? Il mio lo stesso era Marco, quello che hai comprato tu. L'ho preso il gruppo, l'ho venuto io a Marco. E tu dove l'avevi comprato? Internet. Ah, internet. Sì, se ne vedo talmente tanti, per carità. Mai avuto un problema, mai una lamentela, niente. Ma se mi piace quello di Giulio che sta facendo il difetto che fanno tutti i 440, sono passati tanti anni e io quello l'avevo fatto revisionare lo stesso da Guidetti, che adesso non c'è più. L'avevo revisionato Guidetti, l'avevo tenuto un periodo anch'io. L'avevo dato a Franco e Franco l'ha venduto a Giulio, quindi è giusto che adesso vada nuovamente ripreso, sono passati tanti anni. Oh raga, ma Benito che fine ha fatto? Non ne ha più antenna Benito, ha smontato la baracca, non ha più antenna Benito, l'ha scesa perché stava facendo lavori in campagna e poi non l'ha montata. sono 11:01. Invece un po' siamo rientrati dopo l'estate, dai, bene o male, già entra qualcuno, dai, peccato per il Natalino, ma purtroppo così è la storia, eppure io dico che non è da lui, perché lui da noi non disturba, hai capito? Tutti dicono, ma l'antenna è nuova, magari c'ha 30 anni, vanno a dire che è nuova. C'è gente che per non darti soddisfazione, cazzo, ci darebbe fuoco, capito? I vicini sono una razza infame, capito? Una razza bastarda proprio. E io te l'ho già detto, sono d'accordo con te, perché bisogna vedere se è vero, lui non l'ha mai verificato di persona, quindi sono convinto al 100% che lui monta, cambia l'antenna, monta l'altra antenna e le dicono che disturba lo stesso, capito? Per fargliela togliere, perché lì il problema non è disturbo, è che vogliono che tolga l'antenna. Ah, proprio per... cos'è? Li disturba visivamente, quando guardano il cielo vedono l'antenna, vengono disturbati. Gente stronza proprio. Mannaia proprio. Bene, io pensavo anche che la Energy potesse avere, avendo solo tre radiali, uno scarso piano di massa, non so se può influire per il TVI, non me ne intendo, magari no, chi lo sa, No Marco, all'80% come te ce l'ho tu, perché quell'antenna è talmente bassa, i radiali sono talmente bassi, sono 50 centimetri dal piano di massa del tetto, l'antenna non sta irradiando, va a scaricare tutto lì a terra, dove c'è proprio l'antenna della TV attaccata, sia quella sia l'altra, ce l'ha di fronte, capito? Per avere un buon piano di massa quell'antenna, dovrebbe avere almeno distante 2 metri e mezzo dal cornicione, attaccata al cornicione. Non sta andando bene quell'antenna, probabile pure che senza radiale come sta facendo lui abbia un risultato superiore, non lo so, questo è da verificare, ma che quell'antenna stia lavorando bene, su questo non si discute. Seia. Pensa, io quando abitavo in Viale Mameli, al numero 51, avevo una misera Grand Plain, la Sigma GP-VR dell'84, era una Grand Plain full size, non caricata, però ero bello infossato e c'era tutta punizia proprio che mi sovrassava. Insomma, ero abbastanza bassa e mi dicevano gran parte delle persone, soprattutto Latte Dolce, no, Carlos Primero, mi diceva, ma è strano che tu arrivi così basso, mi sembra strano, o ai stazionari che poi non ne avevo, e semplicemente ero fortemente coperto, adesso sono molto più in alto e non c'è paragone. Se tu avevi visto il video del terrazzo, è che non ti posso indicare qual è il palazzo, ma è proprio, lo vedi in basso, e beh, sto uscendo. Abusivi. Sto parlando al muro. Come dal tempo di rispondere, Marco? Sì, stai uscendo. No, Claudio, dicevo, ogni tanto negaggi dalla sedia. Abusivo. Ebbene, Natali, già l'hai vista la foto che ero là? Non sarei mai arrivato. Dove eri tu? A Pomponio sì, ma da te no. Là. Te capì? Qui? Purtroppo. Pensa che in quel punto lì, dove c'è l'ancora, Pomponio mi arrivava a 9, io col portatile, Pomponio mi arrivava a 9, una cosa mai vista. Cosa? Ehi Claudio, stavo parlando con te prima, poi non hai risposto. No, mi sono andato con una certa, cos'hai detto? Aspetta, fammi fare mente locale. Che io ero molto più in basso. Io in quel video del terrazzo attuale si vede il vecchio terrazzo, ed è molto molto più in basso, però non te lo posso indicare, ti dovrei far vedere il video di persona e dirti guarda io ero qua. Ah ecco, capito. Vabbè. Ma a volte l'antenna influisce, non influisce, la posizione posizione, quella che conta, l'apertura e la reazione che ha, se hai ostacoli, tante cose influiscono, capito? Io mi ricordo qua quando sono venuto a abitare qua nell'85, avevo montato una Grand Play così, perché era ancora cantiere, una Grand Play tipo quella che aveva Giuseppe, che arrivavo in capo al mondo con questa Grand Play, perché? Perché l'altezza era quella, non c'è niente da fare. Via. L'altra volta ho visto Giuseppe Leoncino, ho detto ma tu non entri più al bar, sì che entro, e quando entra? Ha detto che sta venendo un Galaxy Pluto, però non mi ha detto quanto ne vuole, in che condizioni è, se è distrutto, se è nuovo. Sono tanto a lavorare a Giuseppe, l'avevo visto una volta allo Spin, così due chiacchiere, perché avevamo tutti e due alla cassa e basta. E infatti mi aveva chiesto se c'era gente, vabbè ogni tanto qualcuno già entra, ma niente di particolare, capito? Non sono tanto a nuovo. Sono come Magnini, io ripigliasse, ripiglia già. Riprende, mi sa che devo portare giù il cane adesso, quelle uscite stanotte, oia, che una bella portentosa. Ci sentiamo dopo, là. No, quella dopo, domani. Mi interessa, se ne hai avvisato, come ti sente che mi sto salutando, se ne è già alzato, che era coricato e si è alzato. Dai, anch'io, tanto Marco sta mangiando, dai, io mi stacco, Marco, c'è mia figlia, ogni tanto mi chiede qualcosa, mi distrae, è un casino, dai, ciao Gianni, ciao Marco, ci sentiamo domani, dai, alle prossime, ciao a tutti, anche quelli che sono in ascolto sul 10, ciao. A parte il naso gonfio, non riesco mai a parlare, ciao a tutti, dai, buonanotte, ciao anche a Natalino. Perché non verrebbe giù questo naso? No, una cosa gonfia, sempre sto andando avanti di una gina, e purtroppo così è il mio naso. Però in questo periodo sta peggiorando. Abbiamo cose gonfie. Pazienza, quando mi si bussani. Quando mi si bussani, si dice, quando mi si bussani. Ci ha incastrato qualche bicchiere. No, fa la tromba di naso lui, e poi un briacone tragico e abusivo. Zitto tu, disturbatore di televisioni e di computer. Ah? Abusivo. Ma roba 40 anni non l'hanno riportato articoli sul giornale, l'hanno fatto a me. Trattati di agribali, figate, a tutti. Se sono te di commenti su te a me, che si chiamano carica, ti sono agribali tutti e due. Ehi, infatti crepano me. Oh, crepano prima, te lo dico io. Prima che piazzo l'antenna nuova, loro crepano. Porro, me sei piccato. Oh, io, l'altro po' va, c'è la giovane, eh. Era un giovane tutti e due. Buona serata. Già c'è allora la tromba di naso, Mimmi, un trombone col naso, Trombone! Drogato! Per quello l'Inps già mi ha mandato il coso, adesso devo andare al CAPS, devo andare, chissà che cazzo vogliono, ancora a rompermi le scatole. Io domani vado al CAPS, tanto l'antenna, la parte elettrica è quasi fatta, quindi vediamo un po', smetto di fare l'antenna e vado al CAPS che mi interessa di più. Natalia, in che la fai? Presto, vado presto da Chiara, sennò bisogna la niente a Ira, tanto è per un'informazione, a vedere cosa gli devo portare. Se ce l'ho in macchina, quello che gli devo dare glielo do, e se no andrò in un altro momento. Però domani devo andare a chiedere questa informazione, devo portare questa lettera che mi è arrivata, una raccomandata, e così lì vede cosa gli devo fare. Ma forse non devo fare nulla perché io non sto lavorando. Cosa ti chiedo in questa raccomandata? Ma fare di nuovo visita? No, buoni una dichiarazione di responsabilità. adesso io mi informo per il sicuro, vado al CAP, gli faccio vedere questa raccomandata che mi è arrivata e lì mi saprà dire. Vabbè, se poi la troviamo come quella degli invalidi che aveva trovato l'altra volta, che lo ci ha preso un cavolo, poi sono andato alla CGL e al sindacato, che mi hanno detto tutto quanto per filo e per segno come era la storia, quindi non comprendiamo nulla, lui, per carità. No, perché io volevo chiedervi questo modello SS3, diciamo che serve per la pensione di invalidità, volevo sapere se la pensione te la davano normale o se ti davano di meno, capito? Infatti. Oppure vado, lo sai dove? Agli invalidi civili. No, non c'è andare, non ne capisco nulla. Agli invalidi civili. Naturalmente siamo andati noi per la chiesa che domandava al collega non lo sa, ma non ricordo di più, siamo andati insieme. Vabbè, ma se ti parli di una raccomandata, saprani cosa. Vabbè, vado a Chiara domani. Peraltro presto, alle 7 sono lì. Spiegata da lei, lo stesso c'è. Patronato. Io a volte. E la che tana ne sei uscito. Buonasera. Ciao, città metà. Ebbene, all'ascolto Iria. Buonasera. Buonasera anche a te. No, c'è adesso in questo momento. Vi ho sentito e sono intervenuto. Scusate l'introduzione. Ma quale scusa? Ci fa sempre piacere quando entri, non c'è problema. Fitto, ma quella l'antenna l'avevi cambiata tu, quella che c'avevi un 20 anni o no? Negativo, è sempre questa. Carta di Miraia, va. È nell'80 l'avevo comprata, non mi ricordo se nel 79 o nell'80, sempre lì c'è. L'avevamo rosolestata anche con Natalina. Sì, hai visto quanto durano le manto, mamma? Marco, non risponde, Natalina, io ti saluto, dai, che devo andare a portare il cane. Io mi faccio una piccola passeggiata. No, volevo andare insieme a te, ma poi mi sono ricordato una cosa. Mi sono ricordato che domani c'è la medicazione alle 10:30. No, sabato è, ma domani cosa è? Domani è venerdì. No, così ti senti. Aspetta, ma domani è giovedì. Oggi è mercoledì, domani è giovedì. E tu hai che orarti, Natale? Io me ne alzo presto perché lì c'è la fila, Tu dove devi andare? Ma tu dove vai? Lì, a quella del monte vado, da Chiara vado. E no, ne scegliamo uno e andiamo, e tu, perché lì vuoi aprire la raccomandata? Aprire cosa cavolo è? Presto a che ora fai, alle 7. Cosa? A che ora fai, alle 7. Alle 7 devo essere lì. E c'è già gente, mi. No, è troppo freddo, no, così questo non ci vengo. Io vado a quella immigrazione da dove va Marco, che gli hanno fatto tenere un po' di roba. Adesso Marco si prende anche l'assegno, capito? 72 euro oltre lo CP. E qual è quella di Via Grazia Veneta? Non lo so che altezza è, lo sai, lo devo telefonare a chiedervelo. Non lo so, dice che c'è una Via Grazia Veneta che è un bel bravo, che sa tutto quanto, è un bel formato. Lo sai cosa è? Io dico che è Chiara quella che sta dicendo. E devo andare a chi? Aspetta un attimo, sono tu. Tu Chiara chi è quella che mi ha disturbato col baracchino, che mi ha detto chi sa mi si innamora mia ditta che va la sento del computer. Gnamma. Quella lì è quella che quella volta ha detto al gran baracchetto unia ditta che va, che ha il vestitino viola, non so che cosa, e lei ha sentito tutto al computer. Avanti. Ho mangiato la pizza, non era poi un granché, quelle confezionate mi surgelate. Ui, ma sarà stata sempre meglio di quella che abbiamo preso che ho preso io l'altro giorno, che c'erano le saline, che schifo. Ma io l'ho assaggiata, io sarei riuscito a mangiarla ancora. La mia era buona, mi è piaciuta molto, panna e salmone, caspita. Certo che se uno, diciamo, uno dovrebbe comprare sempre una pizza diversa, perché io ho la tendenza a fissarmi con la solita pizza. poi ci sono certe pizze che vedo, cipolle, pancetta, sai quelle cose lì, mamma mia quanto sono buone quelle. E mi piace anche l'ortolana che ho già provato, ancora con la verdura. Ci sono tanti gusti buoni, addirittura ne fanno una con l'uovo, non mi ricordo come si chiama, mi pare la Bismarck. Sì, la Bismarck, anche con la carne di cavallo, si chiama Furia. Eia, però io con la carne di cavallo non vado tanto d'accordo, deve essere roba che si scioglie in bocca. Poi mi piace i quattro formaggi da morire, però ogni avviaggio li bevi. Ah, la gorgonzola è buona. Caspita, se è buona, quattro formaggi. Quella lì è buona, però io solitamente prendo lo stromo, che sarebbe con le cipolle, o prendo frutti di mare, solo se sono freschi, se sono conservati non è buio. Infatti i frutti di mare la prendo solo esclusivamente a San Gavino, perché so che c'hanno i frutti freschi. E poi quella zuppa, quella con la zuppa, come si chiama? La corsata, quella lì è buona. Io devo smettere che sto disturbando un amico che sta lavorando, capito? Ciao. Ciao, ciao. Mi dispiace, ciao, ciao. Caspita, ma questo giornalista lavora mattina, pomeriggio, sera e notte, così è. Va bene, Natali, ciao, dai. Però ricordati, quel filtro non l'abbiamo provato. Bisognava fare la prova con lui proprio, a dire guarda se senti niente, capito? Vabbè. Aspetta, l'unica volta che te l'ho portato ed è andato via. Vabbè. Ma sai quante ci volte Milomi? Proprio che nascende la volta. Proprio che nascende la volta. Se senti da qua lo starnuto, cazzo. Tutto il mo più facile è arrivato. Via. Guarda, quando vengono gli starnuti a me sono sempre da uscire negli occhi proprio. Ma vabbè, di questo filtro, vabbè, poco ci credo anch'io me. Io l'ho comprato solo perché la RM Italy raccomanda vivamente, quando usi i loro lineari, di usare quel filtro per ridurre le spurie, perché i lineari mandano una gran parte di, cioè un sacco di spurie armoniche, quindi per essere a norma CE, a norma CE, di usare quel filtro là. Lo fa anche la Midland ed è uguale, si chiama filtro 27/586. Bene, bene, adesso mi mangio un po' di frutta, un po' di dolce e la giornata l'ho fatta, dai. Bene Marco, dai, io sto andando, dai. Ciao, ci sentiamo, buona serata, dai. Guardate il televisore, per la brava. Eia, ci ho da guardare due film scaricati. Uno si chiama Il villaggio dei dannati, bianco-nero, anno 1960. Sicuramente l'avrei visto. E l'altro è l'ultimo di Alien, Alien Covenant. No, lo sai che non ho più pazienza a guardare i film io, non c'ho più pazienza, non lo sto più guardando. Andiamo là. Ci sentiamo Marco, buona serata, ciao ciao. Ci sentiamo. Peccato già, perché c'è quel bellissimo televisore, anche 3D, ti potresti fare a porco, ma forse sai... Vabbè, in compagnia diciamo si segue meglio la TV, no? Fate battute, è come c'era al cinema, capito? Ci sentiamo, buona serata, già buon tutto, dai, ci sentiamo domani. Tanto dove vado io? Pomponio, ci sei all'ascolto? Pomponio, ma niente, sì. Va bene, ciao a tutti, dai, ciao Natalino, ciao Vittorio Volpe, se sei all'ascolto ancora.